Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Vito Gioia. Buonasera a tutti, Vito Gioia. Vito Gioia è uno dei più famosi cacciatori di teste italiani e insieme a Marco Aliquo ha scritto un libro dal titolo in vero abbastanza provocatorio. È facile trovare un lavoro se hai voglia di lavorare. Ecco, in un'Italia in cui la disoccupazione è sicuramente uno dei più grossi problemi sociali, dire che è facile trovare un lavoro è un po' uno schiaffo, diciamo la verità, Vito Gioia. Ovviamente il titolo voleva essere provocatorio, no? Certamente non è facile, ma non è neanche difficile, non è impossibile se le persone cercassero il lavoro che c'è, e invece secondo noi cercano un lavoro che non c'è, cioè un lavoro che loro hanno sognato, che immaginano, ma che in questo momento il mercato non offre, quindi è un problema di incontro domanda-offerta. Ecco, incontro domanda-offerta, questa è un po' responsabilità della scuola che non offre ai giovani dei percorsi formativi adatti a farli entrare nel mercato del lavoro. La possiamo mettere al primo posto sul banco degli accusati? Secondo me no, perché secondo me la scuola dovrebbe insegnare ad imparare piuttosto che dare degli indirizzi troppo precisi. Credo che sia più colpa del contesto in cui vivono le persone, della famiglia, delle influenze, spesso della famiglia, perché se il ragazzo ha studiato, si è laureato, ha preso un master, forse anche due, si aspetta di occupare subito una posizione di prestigio che non c'è in questo momento. Quindi se ci fosse un po' di umiltà, di flessibilità, a prescindere dalla scuola o da quello che ci dicono in famiglia, di lavori ce ne sono. Certo. Però ripeto, serve molta umiltà. C'è molta umiltà e la famiglia tende un po' a proteggere questi giovani. Il fenomeno di cosiddetti bamboccioni, in fondo, ecco, forse non è... Stavo guardando la trasmissione Forum in televisione e c'era una mamma che difendeva il proprio bamboccione, che ha 32 anni e sta in casa a studiare, e dice che non può andare a lavorare perché deve studiare. E c'era invece il padre che non lo difendeva, giustamente. Quindi, come vede, è un'influenza della famiglia, certo. Perché uno potrebbe anche studiare, lavorare, fare i sacrifici, però secondo me non c'è più quel sano senso di fame che avevano i nostri genitori o i nostri nonni, quindi non avendo fame e avendo una vita comoda passa il tempo aspettando. La cosa che diciamo di non fare è di stare seduti ed aspettare che accada qualcosa, perché non accadrà mai. Ecco, appunto, proprio per mobilitare queste risorse, data l'idea di questo libro, che lo ricordiamo, è facile trovare un lavoro se hai voglia di lavorare, delle edizioni Mind, in cui ci sono dei consigli pratici, dei consigli utili per chi appunto soprattutto giovane o anche diversamente giovane vuole trovare lavoro, quindi consigli che riguardano sia le opportunità che già esistono sia i modi per cui possono essere perseguite queste opportunità. Da dove siete partiti, Vito Gioia? Noi siamo partiti dalla constatazione che ognuno di noi, ogni persona è un po' come l'articolo di un negozio. Se voi pensate a qualunque negozio, ci sono degli articoli molto richiesti che si vendono rapidamente e altri articoli che rimangono in magazzino. Quindi il suggerimento che noi diamo ai candidati, alle persone, è di far sì di essere un articolo richiesto dal mercato. Per fare questo bisogna essere molto attenti, capire che cosa cerca il mercato in questo momento e fare in modo da essere richiesti come articoli, altrimenti si rimane in magazzino. Tra l'altro, oltre al libro, noi abbiamo anche inaugurato una pagina Facebook molto utile che si chiama Come trovare un lavoro, e qui, in aggiunta alle idee che sono nel libro, che sono limitate dal numero delle pagine, ogni giorno in tempo reale io inserisco delle opportunità di lavoro di qualunque tipo che vado a catturare da varie fonti, quindi come posso farlo io lo possono fare tutti, basta andare online e ce ne sono di opportunità. Quindi non solo le offerte di lavoro delle imprese, ma anche i concorsi pubblici, anche le opportunità certo. Che possono nascere a livello locale, le opportunità anche di diventare un po' imprenditori, di fare le cosiddette start-up, tutto va compreso in questa prospettiva. Direi trattiamo chiaramente lavori classici che vanno dal mondo pubblico al mondo privato, però insistiamo molto sull'inventarsi un lavoro. Quindi non cercare il posto fisso, non cercare un datore di lavoro, ma essere datori di lavoro di se stessi. Io in famiglia ho un figlio, il più giovane, che è un piccolo imprenditore del mondo digitale. Voglio dire, con i suoi sforzi si è inventato delle cose, le ha fatte diventare un business e vive di quello. Quindi non c'è bisogno di avere un datore di lavoro. Uno si può anche inventare il lavoro, soprattutto nel mondo digitale, dove non sono richiesti grossi investimenti, a volte non serve una fabbrica, non serve un ufficio. Oppure porto l'esempio di un mio cliente che è la Tecnogym, dove c'è l'ingegnere Alessandri che nel suo garage ha costruito il primo attrezzo ginnico e è diventato un colosso. Quindi voglio dire, cerchiamo di non dipendere da altri ma da noi stessi, questo è il messaggio. Cioè, anche in Italia ci possono essere fenomeni, se non uguali, almeno simili a quelli che hanno creato le grandi imprese americane come Apple o Microsoft, certamente fatte le debite proporzioni, ma forse anche non solo nei settori strettamente innovativi, ma anche nei settori tradizionali ci può essere innovazione, ci possono essere opportunità, quindi anche i giovani ci possono essere anche dei modi nuovi di fare cose vecchie, quindi trovare lavoro anche nei settori tradizionali in cui l'Italia resta comunque abbastanza forte, Vito Gioia. Ma guardi, porto sempre degli esempi vissuti. Io questa mattina sono andato a Roma da un ciclista che non esisteva da tempo, ma siccome hanno aperto una pista ciclabile, questo signore molto intelligente di una certa età ha riaperto il classico negozio che ripara le biciclette. Quindi voglio dire, ci sono dei mestieri che sembravano spariti che possono tornare, ci sono modi diversi di offrire un servizio tradizionale, quindi basta un po' di fantasia, però ripeto, alla fine è voglia di lavorare, è passione, è interesse, è avere fame di portare a casa un risultato, quindi è un problema di comportamenti. E anche un po' di fortuna, chiaramente. Certamente, bisogna essere un po' al momento giusto, al posto giusto. Però nel libro ci sono anche consigli utili per scrivere un curriculum, per presentarsi a un colloquio di lavoro. Ecco, dalla sua esperienza di cacciatore di teste, quali sono gli errori principali che fa una persona che si presenta in un'azienda e appunto e ha un colloquio per una selezione di personale? Ma diciamo che l'atteggiamento premiante è quello di essere il più naturali possibili. Quindi comportarsi in maniera assolutamente spontanea, trasparente, con molta onestà e dicendo la verità, soprattutto se il candidato incontra un selezionatore di una società di selezione, che a questo livello è ancora un intermediario, non è l'interlocutore finale. Quindi l'onestà paga sempre, raccontare con chiarezza le cose fatte, le cose che uno vorrebbe fare, non immaginare, diciamo, di passare da un lavoro all'altro completamente diverso, questo diciamo non funziona in genere con le aziende, funziona nel mettersi in proprio. Consigli particolari nello scrivere in curriculum non ce ne sono, io non do molta importanza a come viene scritto un curriculum, ma do molta importanza al contenuto, alla sostanza, soprattutto se si è a livelli manageriali, poi comunque si vanno a controllare dei dati oggettivi di cose fatte, di successi o insuccessi, al di là della forma del curriculum, che ovviamente deve essere chiaro, scritto in un buon italiano, essere facilmente comprensibile, ovviamente. Ecco, uno dei suoi precedenti libri era Come farsi cacciare da un cacciatore di teste. Cos'è cambiato negli ultimi anni nella vostra professione? Sono cambiate le fonti informative. Cioè, mentre alcuni anni fa una prima parte del nostro lavoro era scovare l'informazione, scovare il candidato e procurarsi un curriculum, queste diciamo attività oggi sono disponibili per tutti gratuitamente attraverso internet, quindi non è difficile trovare informazioni su un candidato o trovare un curriculum. Io che diamo ai candidati è di non raccontare bugie nei social network perché potrebbero essere usate poi contro l'interesse del candidato. Quindi quello che suggeriamo, se qualcuno in gioventù ha scritto delle cose un po' stupide e poco presentabili, è di cancellarle se possibile, perché diventano una fonte di controllo da parte degli uffici del personale. Quindi anche lì massima trasparenza, massima onestà, non esporsi troppo perché diventano informazioni controllabili. Ecco, ma in questa prospettiva un giovane che voglia appunto trovare un lavoro, che voglia entrare in una grande impresa, in Italia sono poche le grandi imprese, però le opportunità in questa fase, poi in questa fase di crisi ci sono e non sono molte, però per qualcuno possono aprirsi queste porte. Ma ce ne sono, perché io seguo regolarmente, anche tramite Facebook, varie opportunità che leggo da varie fonti. Ci sono multinazionali che ancora assumono, ci sono aziende pubbliche che ancora hanno dei concorsi, dipende un po' da quello che è il testo del candidato. Quindi parlavo ieri con una giovane che ha voglia di crescere nel marketing, suggerisco di andare in quelle che sono le aziende considerate scuola del marketing, dalla Procter & Gamble alla Colgate, Johnson & Johnson, whatever. Però ripeto, il consiglio poi più concreto è quello di cominciare a lavorare, cioè smetterla a un certo punto di sporcarsi le mani, perché cominciando a lavorare si capisce meglio l'ambiente di lavoro e probabilmente, conoscendo meglio il lavoro, si cambia anche la direzione, quindi si cambia l'obiettivo iniziale. Quindi accettare anche posizioni precarie, posizioni anche poco pagate, ma entrare. Sì, anche gratis, se voglio dire, purché ci aiutino a imparare un mestiere, dopodiché abbiamo un valore aggiunto da vendere. E con grande disponibilità anche, se non a cambiare professione, perché se uno ha l'esperienza è giusta che la valorizza, però a cambiare città, se non a cambiare stato, a uscire anche dai confini. Città, bisogna essere disponibili a muoversi a livello internazionale, magari con l'idea poi di tornare in Italia. Complessivamente, siamo in conclusione, Vito Gioia, possiamo essere positivi e costruttivi guardando alle opportunità dei giovani? Assolutamente, dobbiamo ragionare in termini positivi, non pensare che non c'è lavoro, non pensare che servono solo le raccomandazioni, non è vero. E se siamo disponibili, abbiamo fame, abbiamo voglia di lavorare, siamo mobili, possiamo muovere, il lavoro c'è, un lavoro, io ripeto un lavoro, non quel lavoro che abbiamo in mente in questo momento. E già un lavoro è una cosa importante. Grazie Vito Gioia, cacciatore di teste, di essere stato con noi per presentare e parlare del suo libro scritto con Marco Alicuò. È facile trovare un lavoro se hai voglia di lavorare. L'editore è Mine, sono 110 pagine per 12,50 euro. Grazie a quanti ci hanno seguito, l'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.